Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. No, sorrido perché di nuovo non so più come porlo questo tema della Grecia. Le calende greche. No, in realtà qua non siamo alle calende greche, qui siamo semplicemente al fatto che ancora si tratta. Che secondo alcune fonti di Atene è stata accettata la proposta base di Atene, che secondo invece le fonti tedesche sia ancora distanti, che Angela Merkel ha detto se non occuperà l'Eurogruppo non il vertice, che François Hollande ha detto che è ancora possibile l'accordo ma è necessario. Sono tutti d'accordo nel dire che la soluzione non arriverà al vertice europeo ma dopo, praticamente ormai ci siamo perché il 31 deve ripagare e qualche giorno in più ce lo deve avere, cioè non puoi chiudere a fine mese. Siamo alla situazione in cui Dijsselbloem parla di progressi insufficienti ed è il presidente dell'Eurogruppo olandese, ma di fatto un tedesco come atteggiamento. La proposta della Troica è sul tavolo, i progressi sono insufficienti. L'Austria che spera un accordo in poche ore. Schäuble, il falco tedesco, ministro delle finanze, che dice Atene ha fatto marcia indietro. Non siamo molto ottimisti. Schäuble, ma quando mai lei è stato ottimista in vita sua? Su. Adesso il gufo non lo uso più perché da quando Renzi si è messo a usarlo come espressione abbiamo eliminato, anche se il copyright era nostro, il gufo storico. Però insomma, sentire Schäuble che dice non siamo molto ottimisti, ecco, sappiamo che i tedeschi hanno tante qualità ma non certo quella del senso dell'ironia, gli permettiamo di fargli notare che lei è sempre negativo sull'Italia, sull'Europa, sui paesi del sud, sulla Grecia, un po' come certi colleghi che va tutto male, non c'è nulla che vada bene. Allora, avanti, invece più ottimista il collega, inteso come con nazionale, di Schulz, il presidente di Schäuble, il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, che dice sono ottimista, credo che la razionalità avrà la meglio. Papademos, l'ex premier greco e vicepresidente della BCE, il quale parla poi delle responsabilità dei vecchi governi, cioè Tsipras e Varoufakis hanno molte responsabilità in come hanno condotto le trattative male in alcuni casi, però il debito non l'hanno creato loro, l'hanno creato i governi greci precedenti, d'accordo con le banche tedesche e francesi, d'accordo con la Siemens, con i sottomarini sommergibili tedeschi, cioè con un'Europa che sonnecchiava e a tutti andava bene prestare i soldi alla Grecia e vendere. Fare accordi, la Siemens, se non ricordo male, ebbe anche un problema proprio di inchiesta della magistratura sulle ipotesi tangenti, però vado a memoria, quindi per entrare con il beneficio del dubbio. Comunque, Papademos dice c'è la fiducia sull'accordo, serve il taglio del debito, c'è il rischio di contagio a altri paesi. In Grecia vi sarà un nuovo sciopero dei traghetti passeggeri che resteranno tutti ancorati nei porti martedì 30 giugno, quindi decine di migliaia di viaggiatori vacanzieri non riusciranno a raggiungere le isole. Lo sciopero è indetto dal sindacato dei marittimi addetti ai ferry boat, in segno di protesta contro alcune compagnie marittime che, violando il contratto collettivo di lavoro, da mesi non pagano gli stipendi al personale e hanno tagliato anche i contributi della previdenza sociale. Oh, secondo me la frase più bella è quella che ha detto oggi il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha detto è evidente che un paese come modello orientato all'export, con una posizione creditoria molto elevata, ha almeno altrettante colpe di un paese che accumula tanti debiti. Visco ha avuto il coraggio di dire una cosa facile, che la Grecia è fuori dai binari europei perché ha troppi debiti. Ma la Germania, che ha troppo surplus di bilancio, nessuno ha il coraggio di dirlo, men che meno il governo Renzi, è ugualmente fuori dal percorso virtuoso, perché il patto di stabilità e crescita prevede che tu non faccia troppo deficit e non faccia troppo surplus commerciale. Come dire che in una famiglia non ci può essere un fratello che spende più di quello che guadagna, ma non ci può neanche essere uno che non compra il minimo necessario perché vuole accumulare sempre più soldi in banca, se no sta famiglia salta per aria. Visco. Un paese che tende a avere un modello completamente export-led, surplus di bilancio di pagamenti che continuano a crescere, una posizione creditoria nei confronti del resto del mondo molto elevata, ha almeno, direi, altrettante colpe del paese che fa l'opposto, quindi spende molto di sopra delle proprie possibilità, accumula tanti debiti, perché poi alla fine i debiti che cosa sono? Sono i crediti degli altri, gli altri li hanno concessi, quindi in qualche modo c'era una situazione di accordo chiaramente fondata su basi deboli. Guardate che Visco dice una cosa: se c'è qualcuno che ha un debito è perché qualcuno gli ha prestato i soldi, così come critichiamo le nostre banche quando hanno prestato i soldi in base al salotto, che fosse nelle Marche, che fosse a Genova, che fosse a Siena, che fosse, diciamo, a Milano, in base al salotto frequentato e alle pressioni politiche, non in base al merito di credito, critichiamo anche il fatto che per anni siano andati avanti le principali banche esposte nei confronti della Grecia. Non erano le banche spagnole, italiane, portoghesi, della cinta dell'olio, come la chiamano con un po' di disprezzo i tedeschi, erano le banche francesi e tedesche, perché fino al 2010 i greci erano tutti alti, biondi. Poi improvvisamente si sono accorti che erano greci. Allora, mi spiegate perché 80 miliardi si prestavano alla Grecia e non c'era problema? Poi ti accorgi che forse i greci hanno mentito, hanno ingannato i conti, ma nessuno andava a vederli, faceva comodo a tutti, perché tanto i tassi di interesse pagati alle banche tedesche e francesi erano altissimi, insommergibili, li vendevi senza neanche i siluri dentro, la Siemens vedeva il materiale, dai, ma per favore. Allora, c'era un sistema di collusione tra classe politica greca, che ha delle colpe enormi, e creditori che prestavano soldi o vendevano materiale anche bellico, ma non solo. Non è che il debito l'ha fatto con i pescatori turchi la Grecia. E comunque non difendiamo la Grecia e né difendiamo la Germania. Andiamo avanti con Visco, perché oggi l'intervento in un seminario del ministro degli esteri ha toccato anche altri temi di carattere più geopolitico, poi ne parleremo con Marta Dassù più avanti. Dice Visco che sono molto gravi i segnali di mancanza di una fiducia nell'area euro e che comunque l'economia italiana e quella europea sono tuttora in una fase di ristagno, stagnazione, cioè non è che siamo usciti, noi continuiamo a dire con lo 0,3 campa cavallo, e ci vorranno anni con questi tassi di crescita per tornare ai livelli del 2008. Ricorderei che dal 2008, da quando la crisi finanziaria globale ha colpito globale, quindi tutto il mondo, c'è stata una caduta di attività economica, di reddito, di occupazione, che ha un po' riguardato tutti i paesi e tutti i continenti. Alcuni ne sono usciti prima e meglio, l'Europa non tanto. Si prevede che soltanto alla fine di quest'anno l'economia europea ritornerà ai livelli produttivi che aveva sperimentato nel 2008. L'economia italiana è ancora molto distante da quei livelli e per ritornarci probabilmente ci vorranno ancora diversi anni. Oh. Allora, vedo che qualcuno dice: morale della favola, avete rotto voi e la Grecia. Sì, guardi, ci rendiamo conto che il tema greco può anche sfinire, si figuri se non sfinisce noi. Poi ne parleremo nella seconda ora. Andiamo avanti con l'Italia invece, nel giorno in cui comunque la borsa, visto che me lo chiedete, sono miste e sicuramente non sentono l'effetto greco oggi. Parigi invariata, Francoforte invariata, Milano più 0,60% con la Pop Emilia Romagna più 2,60, Ferragamo più 2,5, Pop Milano più 2,30, Prismian più 2,20%, il 2 lo guadagna anche Mediaset, l'1,90 Intesa San Paolo, l'1,80 Banco Popolare, l'1,50 Enel con Steam Microelectronics e Mediobanca. Fronte opposto invece Tenaris che perde il 2,30, Saipem il 2%, Fiat Chrysler il meno 1,60, Unipolsai meno 1,40, Eni meno 0,65%. altri ci chiedono se è vero che saremo all'Expo. Sì, Radio 24 la prossima settimana, con buona parte, non tutti, per motivi logistici ed orario dei suoi programmi, si trasferirà all'Expo, nel padiglione Cibus, quindi dell'eccellenza dell'industria alimentare italiana, dove ci sono tutte le più grandi industrie alimentari italiane. Fedalimentare, padiglione zona est, vicino a quello russo, se vado a memoria, poi daremo tutte le indicazioni e anche noi trasmetteremo da lunedì e venerdì, appunto, dal padiglione Cibus Fedalimentare dell'Expo di Milano, ingresso est. Ancora molti mi scrivono sul surplus tedesco, ma non lo dico io, è previsto dal trattato di, dal patto di stabilità, che tu non possa accumulare troppo deficit né troppo surplus di bilancio, ed è stato detto alla Germania in maniera molto timida, ma è stato detto, non ho previsto io. Il patto di stabilità, per avere una cosa stabile, vuol dire che tu non puoi spendere troppo, ma non puoi neanche avere qualcuno che non spende nulla e magari occorre cambiare l'impianto elettrico della casa perché accumula i soldi in banca, perché sennò la casa va giù. Va giù sia se c'è qualcuno che spende troppo e non riesce a pagare il mutuo, ma va anche giù se qualcuno è così tirchio, col braccino corto da T-Rex, che non sistema neanche le fessure e le incrostature nel soffitto, capite, le crepe nel soffitto. Va giù in tutti e due modi la casa, per questo che il patto di stabilità prevede che tu non possa avere troppo deficit o troppo surplus. Va bene, adesso immagino i commenti degli ascoltatori nella frase che sto per far ascoltare del presidente di coordinamento delle sezioni riunite della Corte dei Conti, che oggi nel commentare i dati della Corte dei Conti, che ha scoperto che la pressione fiscale nel 2014 è aumentata, oddio, soprattutto è di 1,7 punti percentuali più alta della media europea, è al 43,5% del PIL, e il commento di Enrica La Terza, presidente del coordinamento della sezione della Corte dei Conti, è: il livello di pressione fiscale in questo paese è intollerabile. La spesa primaria corrente invece è aumentata di 16 miliardi, spingendo in direzione di un maggiore indebitamento, attribuibile però alla sola componente per prestazioni sociali. Al netto di questa voce, la spesa primaria corrente è diminuita nel periodo di quasi 21 miliardi. Difficilmente dunque il sistema economico potrebbe sopportare ulteriori aumenti della pressione fiscale. Prioritaria appare semmai la necessità di un intervento di segno opposto, volto a restituire capacità di spesa a famiglie e imprese. Una direzione effettivamente intrapresa nel corso del 2014 con i provvedimenti volti a ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro. Certamente a riduzione del cuneo vanno le misure di esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP e di decontribuzione per i nuovi assunti, che costituiscono punti qualificanti della legge stabilità 2015. La contemporanea azione sui redditi delle famiglie e sui costi delle imprese punta a rilanciare la domanda aggregata, sostenendo i consumi delle prime e la competitività delle seconde. Impulsi che potranno trovare alimento addizionale in un contesto di recupero già avviato della congiuntura, favorendo quell'ambiente macroeconomico espansivo che è indispensabile per un effettivo allentamento della pressione fiscale. Vedo i commenti, vabbè, se ne è accorta anche la Corte dei Conti. Noi abbiamo degli ascoltatori molto più cattivi che ce lo dicono tutti i giorni, che la pressione fiscale per chi lavora e per chi le tasse le paga è insostenibile, sia gli artigiani che i commercianti che gli imprenditori che le tasse le pagano ce lo scrivono, è insostenibile. Lo ammette anche la Corte dei Conti, che dice: bene comunque lo sforzo avviato di riequilibrare i conti pubblici, si sono ridotti significativamente gli interessi sul debito, sì, ma non per merito nostro, per merito di Mario Draghi, e dei tassi a zero, abbiate pazienza. Il fatto che abbiamo riequilibrato i conti pubblici, aggiungo io, sì, però abbiamo fatto tutto sul fronte delle entrate, cioè aumentando la pressione fiscale e tagliando in maniera così orizzontale la spesa pubblica, non sul fronte degli sprechi, non sul fronte del malaffare, non sul fronte dei costi della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento, non sul fronte degli stipendi dei dirigenti, dei capi dipartimento della pubblica amministrazione, che restano i più pagati in Europa. Su quei fronti siamo all'anno zero. Sul fronte aumento delle tasse sulla casa, riduzione dei trasferimenti ai comuni e alle regioni per il welfare, con le conseguenze che aumentano le addizionali regionali, lì da Monti in poi, anche con una parte di Tremonti, siamo andati benissimo. Su toccare i mandarini dello Stato, i capi dipartimento dei ministeri, i mandarini di questo Stato, strapagati per bloccare tutto e lavorare male, non ho problemi a dirlo, abbiamo fatto anche un'intera puntata su questo, su quello siamo a zero. Per andare a ridurre i 30.000 stazioni appaltanti, ogni governo dice voglio ridurre, siamo ancora a 30.000 soggetti giuridici che possono indire una gara d'appalto per una siringa o una fotocopiatrice. Siamo all'anno zero. In compenso le manovre finanziarie si fanno sempre sul fronte della pressione fiscale o della riduzione così orizzontale della spesa. Scusatemi, ma oggi ho poca capacità di mediazione. Continua la Corte dei Conti, c'è rigidità delle pensioni. La rigidità del sistema pensionistico pesa sulla spending review. Difficoltà di attuare i programmi inseriti nella spending review nella legge di stabilità del 2015. È brutto dirlo, ma continuiamo a dirlo al governo. Che fine, come farai a ottenere quei risparmi se ancora non sappiamo cosa sarà la spending review? Avete mandato via Cottarelli, è arrivato Gutgeld che dice che ha fatto un bel lavoro, ma non sappiamo ancora cosa succederà. Boh, lo fa notare anche appunto il coordinamento delle sezioni unite della Corte dei Conti, Enrica la Terza, aggiungendo che c'è sempre meno pubblico e i cittadini dovranno coprire parte dei costi dei servizi che non arriveranno più. La ridotta natalità, il contemporaneo innalzamento dell'età media della popolazione e l'erosione dei livelli di occupazione creano una combinazione sfavorevole che non può essere affrontata con i mezzi tradizionali delle politiche di bilancio, mentre richiederebbe una revisione coraggiosa dei confini dell'intervento pubblico. E questo è un punto di snodo che deve portare al centro dell'attenzione il fatto che un duraturo controllo della spesa pubblica può ormai difficilmente prescindere dalla questione del perimetro dell'intervento pubblico, con la necessità di riorganizzare alla radice le prestazioni e le modalità di fruizione dei servizi pubblici. E oggi devo proprio incavolarmi. Ho capito, però questo cosa vuol dire? Che aumenta la pressione fiscale e poi io come cittadino devo integrare i servizi che lo Stato non riesce più a darmi. A casa mia, secondo i grandi studi dell'economia classica internazionale, si chiama cornuto e mazziato, perché o mi riduce la pressione fiscale e mi chiede di partecipare alla copertura dei costi di alcuni servizi che tu come Stato non puoi più fornirmi, o mi fornisci quei servizi a parità di un'altra pressione fiscale. Qualcuno vuole sapere quanto è alto il surplus tedesco? Il surplus è l'opposto del deficit, è al 7% del PIL. E si dice come patto di stabilità che tu non possa avere un deficit superiore al 3%, ma non puoi neanche avere un surplus del 7% del PIL. Spendi, cavolo! E come? Non dai soldi agli italiani o ai greci. Aumenta un po' i tuoi salari, così fai ripartire un po' la domanda interna in Germania, fai qualche investimento infrastrutturale, le autostrade tedesche non sono un gioiellino, spendi per le infrastrutture, cioè rimetti in circolo denaro in modo che se ne avvantaggeranno in primo luogo le imprese tedesche, che però magari hanno anche qualche impresa italiana come fornitrice, subfornitrice. C'è un problema di equità, non ci può essere un fratello che ha il 7% di surplus, così come non ci può essere qualcuno che ha, tipo la Francia, il 4% di deficit. Allora, mi scrive un ascoltatore che suo figlio di 3 anni sta domandando se il bambino che parla alla radio è arrabbiato. Sì, dica a suo figlio che sono arrabbiatissimo, perché questo è un paese che è sempre bravo in orale. Poi sui fatti stiamo arrivati a inizio, praticamente fine giugno, inizio luglio, e ancora dalla spending review non sappiamo nulla, non sappiamo come arriveranno quei risparmi di spesa. Intanto Cottarelli ha fatto il libro, tutti l'hanno intervistato, il libro è anche, vedo, ben messo in classifica, è tornato a Washington. C'era tutta sta fretta di mandare via Cottarelli, Presidente del Consiglio Renzi, tutta sta fretta. Io l'avrei tenuto, ma facevi fare la prima parte della spending review e poi i suoi consiglieri arrivavano. Vabbè, passo tutto mio. Allora, l'INPS, calano le colf ma più italiani. Allora, crescono ancora le colf italiane. Io non so se questa sia una buona notizia, è un bellissimo mestiere, onorabilissimo, importantissimo, però crescono ancora le colf italiane, quindi la componente di colf, di collaboratrici domestiche italiane, nonostante il calo complessivo della categoria. Nel 2014 i domestici, ma non piace la parola domestici, le collaboratrici domestiche erano, o collaboratori domestici, erano 898.489. Quelli non in nero, chiaramente, quelli che conosciamo, con una riduzione di quasi il 6% sul 2013. Però a causa della crisi, nel frattempo, la parte delle italiane, delle collaboratrici domestiche di origine italiana, è cresciuta del 4% e ha superato quota 200.000, 205.000 su un totale di 800.000, 900.000. Pensate che solo negli ultimi due anni la quota delle collaboratrici domestiche italiane è cresciuta del 10%. Allora, dunque, vedo tantissimi messaggi su questo, non posso rispondere a tutti. Sì, sappiamo che Angela Merkel è nata nella DDR, però non è che dobbiamo pagare noi le conseguenze della sua nascita e della paura che hanno i tedeschi dell'inflazione, perché gli è arrivato Hitler. Mille volte abbiamo spiegato che Hitler non è arrivato per l'inflazione in Germania, contrariamente a quello che pensano i tedeschi, ma è arrivato per le politiche di austerità messe in piedi da quel governo durante la recessione del 29, che crearono un aumento della disoccupazione, e il Partito Nazionalsocialista, che valeva niente, schizzò nei risultati. Guardate, adesso non voglio fare paragoni indebiti, ci mancherebbe, ma guardate che cosa ha portato la disoccupazione e l'austerità come conseguenza elettorale in Spagna, in Grecia e anche in Italia. Nulla a che fare con il baffetto Hitler, ma guardate se l'austerità non porta sempre storicamente all'affermarsi di partiti, diciamo, chiamiamoli così, populisti o comunque antisistema, con una forte contestazione nei confronti del sistema. Avvenne così anche nel 29, non c'entrava niente l'inflazione della Germania la stava già riconducendo a livelli più corretti, non erano i 4 miliardi di marchi per comprarsi un pezzo di pane del 1923-24. La storia va letta e non così come pensano i tedeschi, ricordata male. Ancora, anche le italiane tornano a fare le badanti, più 14%. Torniamo alle notizie di casa nostra. Mentre sull'allarme della Corte dei Conti, e nello specifico sull'allarme lanciato sulla pressione fiscale, che a noi sembra un po' un'ovvietà, ma insomma, da lì arriva oggi la critica, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore. Chiaramente, come sempre, realizzati con la redazione del Sole 24 Ore, e oggi è il vice direttore Salvatore Padula. Vi ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Arriva dalla Corte dei Conti un nuovo monito al governo sull'eccessivo peso di tasse e contributi. L'analisi in effetti è impietosa. Il sistema economico, dice la Corte, non può sopportare ulteriori aumenti della pressione fiscale, che continua a essere tra le più elevate in Europa. Siamo al 43,5% del PIL. Altrettanto limpida, ma con una sbavatura finale, è la cura proposta dai magistrati contabili, vale a dire un invito esplicito rivolto al governo per adottare interventi di segno opposto, capaci cioè di restituire capacità di spesa sia alle famiglie sia alle imprese. Qualcosa, ammette la Corte, è stata fatta quest'anno, ad esempio con i primi segnali per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, oppure con i famigerati 80 euro, ma è evidente che servirà molto molto di più. Sul fronte opposto, quello della spesa, la Corte è consapevole delle difficoltà di ogni piano di spending review e di tagli, ma se la spesa non si può tagliare, dice la Corte, allora è necessaria una sorta di patto sociale per riorganizzare le prestazioni offerte dallo Stato e le loro modalità di fruizione. I magistrati contabili parlano cioè di una revisione del perimetro del welfare statale e della necessità di far pagare di più ai cittadini per la copertura dei costi dei servizi pubblici. Ed ecco appunto la sbavatura di cui si diceva, perché questo in pratica è un altro aumento delle tasse. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Prometto e giuro che non parlerò più della Germania, me lo chiedono con insistenza alcuni ascoltatori. Sto zitto sulla Germania, almeno finché non arriva Marta da su alle 18.15. Adesso meteo e pubblicità e poi un incontro importante. Ci scrivono molte volte gli autotrasportatori perché ascoltano tanto la radio. C'è un incontro importante martedì con le associazioni di categoria dell'autotrasporto e il ministro delle infrastrutture e trasporti di Graziano Del Rio per le problematiche di un settore che ha pagato pesantemente la crisi. Il trasporto merci è stato massacrato negli anni peggiori della crisi. Anche di questo ci occuperemo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Meteo. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, parliamo adesso dell'autotrasporto, poi arriviamo alla borsa. Oggi puntata, mi scrive un ascoltatore ultra populista, la spending review verrà presentata con la legge di stabilità, poi vedremo. Intanto una bella indagine sugli stipendi dei magistrati della Corte dei Conti, no eh? Ma lei da quando lavora all'ufficio stampa del governo? Chiedo, perché insomma, la spending review verrà presentata, no, guardi che la spending review è già stata messa in legge di stabilità, c'erano già i risparmi della spending review previsti, di cosa sta parlando? Poi ne verrà messa la nuova versione di Good Guide. Vediamo, però a noi guardi, lotta all'evasione fiscale e spending review sono due temi che sono crollati nell'agenda del governo. Vuole contestare anche questo? Poi l'indagine sugli stipendi dei magistrati della Corte dei Conti, abbiamo parlato mille volte, ma ben venga, che faccia l'indagine anche sugli stipendi dei magistrati della Corte dei Conti. Per ascoltare certe banalità, forse non serve neanche essere pagati. In altri casi, invece, la Corte dei Conti svolge un lavoro egregio quando va a bastonare gli sprechi della pubblica amministrazione. Però di cosa stai parlando? Allora, vediamo come andrà invece la trattativa del mondo articolato e complesso dell'autotrasporto con il governo. Ringrazio il presidente di Anita, Thomas Baumgartner, dell'Associazione Nazionale Italiana Trasporto Automobilistico. Buonasera presidente. Buonasera. Mi sente? La sento un po' basso, alzate per favore il livello del presidente. E anche grazie al presidente di FAICONF Trasporto Paolo Uggè, buonasera anche a lei. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Uggè, lei è una vita che si occupa di autotrasporto, è da quando è nato questo programma che già lei era ospite, per cui immagino che potrà darci anche un inserimento e un quadro storico. Nella legge di stabilità sono stati previsti interventi per 250 milioni a favore dell'autotrasporto. Questo in seguito all'accordo raggiunto a fine gennaio tra governo e associazioni di categoria. In pratica verranno dati aiuti, se ben ricordo, 120 milioni per il rimborso di pedaggi autostradali, 60 milioni per spese non documentate, 20 milioni per la copertura del contributo del Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione, 10 milioni per la formazione professionale e 40 milioni per lo sviluppo della intermodalità, della logistica e dei processi. Certo, rispetto ai 400 milioni abituali sono meno i 250, però sa com'è, a Milano dicono piuttosto che niente, meglio piuttosto, no? Lo dicono in Piemonte per la verità. E anche in Piemonte, ha ragione. Ah, bene. Ma comunque bisogna considerare che quello è stato un buon accordo, anche perché provvedimenti che riguardavano il costo del lavoro, come l'INAIL la possibilità dell'assunzione, quindi si applica anche alle imprese di autotrasporto, sia l'esenzione dei contributi, sia la misura sull'IRAP, sono interventi che vanno a favore delle imprese e quindi ecco perché le associazioni hanno anche accettato quella riduzione che da 400 ha portato a 250 milioni. Se assommiamo questi altri interventi scopriamo che forse abbiamo superato i 400 milioni, quindi lì non c'è stato nessun cedimento ma una linea concordata con il governo che ha riconosciuto la necessità di intervenire onde evitare che il flusso delle imprese italiane vadano sempre di più a delocalizzare la loro attività e gli operatori del trasporto vedano ridursi la loro quota di mercato e i lavoratori perdere posti di lavoro. Questa è la situazione. Allora, mi fanno notare che devo aver detto che è un mondo articolato quello dell'auto articolato. Sì, vabbè, l'avrò detto, ok, è un mondo articolato quello dell'auto articolato. Presidente Baumgartner, già vi facevo riferimento il presidente Uggè, perché? Perché dal 2008 al 2013, da quando è nata è scoppiata la crisi, sono fuggiti dall'Italia 26.000 TIR, nel senso che si sono trasferiti i padroncini, ma non solo, anche società più grosse, in paesi con minor costo del lavoro. In questi 5 anni, dal 2008 al 2013, le casse pubbliche hanno perso 10 miliardi di euro tra imposte, perché il mondo dell'autotrasporto paga le tasse, trascrizione accise IRAP e IRES e anche a minor trasferimenti agli enti previdenziali. Allora, e meno 60% l'immatricolazione dei veicoli sopra i 35 quintali, abbiamo un parco macchine che è il più vecchio d'Europa, meno 14% delle percorrenze stradali, meno 33% delle tonnellate trasportate, meno 37% del consumo di gasolio. Mi dica se c'è qualche segnale di controtendenza nell'ultimo anno. No, i dati che lei elenca sono giusti, non è che vediamo oggi un'inversione di tendenza. Purtroppo, come ha voluto l'Unione Europea, l'integrazione troppo veloce dei paesi dell'Est Europa, con del costo di personale, soprattutto del conducente che è un terzo di quello del costo italiano, ha fatto sì che abbiamo subito questa delocalizzazione di massa delle imprese e chi non l'ha fatto ha chiuso, ha dovuto licenziare le aziende. Sta succedendo la stessa cosa che è successo negli anni 90 nel settore marittimo, quando le navi con bandiera italiana hanno cominciato a battere bandiera maltese o panamese perché aveva i costi più bassi. Il governo quella volta giustamente ha reagito introducendo il doppio registro per i marinai sulle rotte internazionali e questo ha salvato le navi. Noi chiediamo la stessa cosa anche c'è un doppio registro? Settore, un doppio registro dove per gli autisti che sono impiegati in trasporti internazionali vengono decontributizzati, cioè non pagano più i contributi, in modo che il loro costo si allinei un po' a quel costo di quei vettori dei paesi d'est che oggi stanno portando via il lavoro alle aziende. Quindi se ho ben capito, Presidente Baumgartner, voi chiedete che gli autisti, gli autotrasportatori che effettuano carichi e spedizioni di carattere internazionale e che quindi sono in concorrenza diretta con gli sloveni, giusto per fare i nomi, con quelli dell'est Europa e quant'altro, bulgari, rumeni, polacchi, la Polonia ormai trasporta il 37% la Polonia delle merci, la Polonia della merci che dall'Italia parte verso tutti i paesi dell'Europa, non solo verso Polonia. Che lì vi sia una defiscalizzazione. Dopo le informazioni sul traffico, quanto mai a pennello oggi, vorrei capire da lei, da Uggè, se e che margini vedete, visto che l'incontro è fissato per martedì. Focus Economia. Allora, alla luce dei numeri che avete ricordato, che fanno impressione perché c'è una crisi generale del settore dell'autotrasporto dovuta alla crisi economica, poi c'è una crisi nella crisi, cioè che all'interno dell'area europea avete subito una concorrenza devastante da parte, appunto, non tanto degli sloveni, ha ragione a correggermi il presidente Baumgartner, ma dei polacchi, dei bulgari, dei rumeni. Io sono ancora sotto shock, per modo di dire, dalla cifra che lei ha diffuso, di 37% delle merci che dall'Italia vanno in Europa sono trasportate da autotrasportatori di società editte polacche. La proposta, se ho ben capito, UG gli dire: beh, almeno dai delle agevolazioni fiscali, come è fatto per il trasporto marittimo, a quegli autotrasportatori che vanno in concorrenza diretta con le società di autotrasporto rumene, bulgare, polacche. Avete, martedì scorso avete incontrato Del Rio, vi saranno altri incontri? Avete notato un'apertura da parte del governo su questo? Ma nelle intenzioni e negli annunci non si può dire che il ministro Del Rio non abbia fatto prospettive interessanti. Il problema è che non possiamo continuare a ricevere assicurazioni sulle cose che si faranno e non si fanno le cose necessarie. Vorrei aggiungere un dato altrettanto preoccupante. La presenza dei vettori dell'Europa dell'Est nei traffici in Italia è passata dal 7% del 2003 al 47% del 2013. Anche questo elemento, voglio dire, dovrebbe far riflettere chi affronta la politica dei trasporti. Allora, bisogna fare un piano della logistica. Oggi si parla tanto del piano della portualità e della logistica. È una contraddizione in termini. Logistica è un sistema complesso, certo, che vede porti, interporti, trasporto ferroviario, marittimo, su gomma, tutti insieme in un piano generale. Parlare del piano dei porti non ha senso, perché deve essere invece collegato ad un piano molto più generale. Ma per esempio ci sono delle cose che fanno inorridire. Le imprese di trasporto italiano che trasportano rifiuti pagano un sistema che si chiama Sistri, che è stato riconosciuto non funzionante dal ministero in carica. Eppure, in attesa che arrivi un nuovo sistema, che speriamo funzioni, le imprese sono obbligate a pagare un contributo, se no, se vengono il famoso fermate, Sistri, controllate, certo, pagano 15.500 euro di multa. Le sembra una cosa logica? Si può intervenire? Certo che sì, ma lei, prima sentivo la vostra trasmissione, i dati della Corte dei Conti, e dalle mie parti, Milano, si dice che è il rosto che dà la colpa al bruciato, traduco per i non milanesi, il rosto dà la colpa al bruciato. I signori della Corte dei Conti sono i mandarini di ieri, la gran parte di loro, e quindi sono quelli che hanno contribuito a realizzare questa situazione. E oggi, anziché fare questi dati, perché non evidenziano, per esempio, l'inutilità del PRA? 190 milioni di euro costa il doppio registro automobilistico. Allora facciamo le cose che si possono fare subito. Ma anche quello, guardi che Cottarelli l'ha scritto, lo so bene, l'ho letto il libro di Cottarelli, ha detto ma che senso ha avere l'Automobile Club italiano, tutti costi impropri. Chiaro che poi sono poltrone, adesso mi romperanno le scatole quelle dell'Automobile Club, leveranno gli investimenti, ma lei sa che le imprese leveranno gli abbonamenti, perché c'è questa bella abitudine che quando critichiamo qualche associazione di categoria, nell'ultima fu la Coldiretti, non è che vogliono venire in studio a commentare, a argomentare, a ribattere, no, levano gli abbonamenti a Sole 24 Ore, che è un metodo bellissimo. Allora andiamo avanti con, no, lo dico perché ce l'avevo qua da un po', no, Thomas... guardi, mi consente questo, le imprese italiane di autotrasporto oggi sono anche in grande difficoltà, perché non riescono più le motorizzazioni a fare le revisioni. Questo cosa vuol dire? Che quando vanno all'estero, all'estero dove i controlli ci sono e funzionano, i mezzi vengono fermati, ma non è colpa delle imprese italiane se le motorizzazioni non hanno gli ingegneri e non riescono a fare le revisioni, ma diano alle officine esterne la possibilità di fare le revisioni, poi vadano a fare i controlli. Devo chiudere, Thomas Baumgartner, anche lei dell'idea che sì, teoricamente vanno detto di sì, però... Condivido quanto dice il Presidente UGE, voglio aggiungere solo un'altra cosa. Noi, lei prima ha parlato anche della tassazione troppo elevata in Italia. Sì. Io sono sicuro che questa tassazione non è neanche calcolata, perché solo per noi trasportatori paghiamo sì le tasse e tutto quanto, ma bisogna anche calcolarne che noi per esempio in Italia paghiamo l'autostrada che incide del 12% sui costi di gestione, dove in altri paesi queste non si paga, le accise sono le più alte in tutta Europa, la tassazione veramente in Italia deve abbassarsi, se no non si riesce più ad essere concorrenziale. Noi non sappiamo più come dirlo, poi dicono che siamo populisti e vabbè. Allora intanto grazie, in bocca al lupo a tutto il settore dell'autotrasporto, ripeto, massacrato due volte dalla crisi dell'economia e quindi dal crollo della domanda interna, dei consumi e dell'export fino a qualche anno fa, e dalla concorrenza non sleale però insomma loro i cinesi li hanno dentro l'Europa, se mi passate, se non si offendono, i polacchi, gli ungheresi, i rumeni e i bulgari, cioè hanno una concorrenza fortissima interna e soprattutto sulle rotte internazionali. E attenzione, perché un minimo di vantaggio fiscale lo devi anche dare, più che un minimo, un buon vantaggio fiscale quando competi all'estero. Grazie quindi a Thomas Baumgartner, presidente della NITA, e a Paolo Uggè, presidente di FAI Conftrasporto. Hola, allora, vedo molti messaggi, poi adesso dobbiamo andare alla borsa, poi andremo all'Eurogruppo. Sorrido perché oggi non so più come prendere. Pochi istanti fa le agenzie hanno battuto il flash. Allora, l'Eurogruppo è finito senza un accordo, ok? L'Eurogruppo è terminato senza arrivare a un accordo. Sempre dichiarazione di pochi istanti fa di Tsipras: la nostra proposta è una buona base, l'intesa aiuterà noi e l'Europa, sono d'accordo e fiducioso che si arriverà a un compromesso, intanto per oggi nulla di fatto. Più 0,85% Milano nel finale, meno 0,07% Parigi e non Londra. Francoforte invariata, Londra meno 0,50%, l'America più 0,16% di borsa. E poi diciamo dei dossier di politica economica e internazionale aperti parleremo dopo GR24. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Proteggila che abilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Sono le 18. Focus Economia. Minuti, vedo molti messaggi da parte degli autotrasportatori, altri che ci chiedono quando sarete all'Expo. Saremo nel padiglione Cibus con Federalimentare e Fiera di Parma, da Focus Economia nello specifico, da lunedì fino a venerdì. La prossima settimana trasmetteremo tutti i giorni dall'Expo, appunto padiglione Cibus. Per quello che riguarda invece l'autotrasporto non posso tornarci, voglio invece arrivare alla borsa, che oggi non presenta grandissimi spunti, più 0,85%, per poi arrivare invece a questo vertice Eurogruppo che si è concluso con nulla di fatto. Di nuovo sulla Grecia, Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Invariata Francoforte, invariata Parigi, la domanda è: cosa ha portato Milano ad andare meglio delle altre? Il settore bancario, che anche oggi si è messo in evidenza perché il mercato continua a ragionare sugli effetti del decreto sulla deducibilità delle perdite, che dovrebbe sbloccare un po' il mercato dei crediti cosiddetti non performanti, non performing loans, e che quindi potrebbe avere un impatto positivo un po' su tutto il settore bancario. E infatti Popolare Emilia Romagna più 2,80, Pop Milano più 2,40, Banco Popolare più 2%, Intesa San Paolo più 1,90, Unicredit più 1,60, Mediobanca pure. Concludo con Monte dei Paschi, che guadagna l'1,25%. Per quello che riguarda invece gli altri titoli, segnalo che si è messa in evidenza oggi anche ST Microelectronics, da un lato, che guadagna l'1,90%, e poi la vicina Telecom. Vivendi è salita al 15%, più di quanto previsto, e si fanno ragionamenti anche sulle prossime mosse. Telecom Italia, per inciso, oggi Guido ha segnato alla fine un dato completamente invariato, 0,00. Oggi è stata, diciamo, una giornata di riflessione per gli investitori per quello che riguarda Telecom. La notizia che Vivendi dovesse salire vicino al 15%, al 14,9% era stata più volte anticipata dai giornali nei giorni scorsi, ma ieri è arrivata l'ufficialità e oggi sono anche state un po' rese note le strategie di Vivendi per quello che riguarda Telecom Italia. In un'intervista l'amministratore delegato del gruppo francese ha spiegato che loro saranno un investitore di lungo termine, che quindi valuteranno tutte le possibili forme di cooperazione con Telecom Italia, ma non ha chiarito alcuni aspetti importanti. Ad esempio non ha chiarito se vorranno crescere ulteriormente nel capitale della società e cosa intenderanno fare ad esempio su un ultimo partecipasso, e quindi la controllata brasiliana di Telecom Italia, se intendono venderla o meno. Quindi ci sono ancora tutta una serie di cose che probabilmente verranno chiarite solo nei prossimi mesi e su cui in questo momento si sta ragionando. Tenaris debole meno 2%, Saipem perde l'1,50%, Unipol sale l'1,30%, Fiat Chrysler meno 1,20%. E qui, nonostante il lancio ieri della Giulia, ne abbiamo ampiamente parlato, il mercato è freddo, se ho ben capito, perché Marchione ha frenato sull'ipotesi di integrazione con General Motors. Sì, sostanzialmente ha detto che i tempi sono da venire, mentre altre volte era sembrato più deciso, questa volta è sembrato, come dire, un po' più distaccato sul tema, per cui il titolo ha ceduto leggermente. L'altro tema era appunto quello del rilancio dell'Alfa Romeo, su cui comunque Fiat, il gruppo Fiat Chrysler punta molto. Alcuni analisti oggi osservavano nei loro report che l'obiettivo di 400.000 vetture vendute l'anno nel 2018 appare in questo momento ancora ambizioso. Il rilancio iniziato con la Giulia può essere un passo nella direzione giusta, ma andrà poi confermato con ulteriore. Sì, anche perché le ultime matricolazioni di Alfa erano intorno alle 70.000, 68.000 vado a memoria, per sì. Cui il passo è molto, molto ambizioso. Ultimo titolo che vorrei che commentassi è Enel, che va bene oggi in borsa, in realtà poi ha un po' ritracciato. Enel Green Power fa più 1,70%, Enel ha fatto più 1,1%. Sì, per quello che riguarda Enel ci sono delle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sul fatto che il gruppo italiano potrebbe vendere una quota significativa della sua partecipazione in Endesa, quindi nella controllata spagnola. Ci sarebbe già un'accordata di private equity pronta a rilevare un pacchetto importante, e sono indiscrezioni che andranno ancora tutte verificate, anche perché solo poche settimane fa Enel aveva detto che la quota in Endesa poteva restare immutata, che erano soddisfatti dell'investimento. Però insomma oggi sia Enel, che ha guadagnato l'1,1%, sia Endesa, che ha guadagnato oltre il 2% a Madrid, hanno risentito di queste indiscrezioni. Migliori e peggiori in assoluto: Hyreal più 25%, Meteorius Capital più 23%, Modelleria Brambilla più 11,40%, Compagnia della Ruota più 8,70%. Peggiori: Energy Lab meno 4,30%, Industria e Innovazione meno 4%, Investimenti e Sviluppo meno 3,70%. Grazie Guido Marino, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Adesso occupiamoci del nulla di fatto dell'Eurogruppo, ma insomma, ampliando però il ragionamento alle tensioni di carattere geoeconomico che stanno attraversando l'Europa. In rapida sequenza, due iniezioni di ottimismo, si fa per dire, il presidente dell'Eurogruppo, Erin Dijsselbloem: non ci sono progressi, i progressi sono insufficienti. E poi il mitico falco tedesco, Wolfgang Schäuble, ministro delle finanze: da Atene è arrivata una marcia indietro. The only thing we have presented to the Eurogroup. La sola cosa che abbiamo presentato all'Eurogruppo è il lavoro che la Commissione, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale hanno fatto insieme fino ad ora. Non abbiamo ancora raggiunto l'accordo con la Grecia su queste proposte. Dalla riunione dell'Eurogruppo ci aspettiamo di capire quali siano le idee della Grecia e su quali basi sarà possibile trovare un accordo. We'll take it from there. In in effetti queste dichiarazioni fanno un paio con quanto battono le agenzie in questi istanti. Al di là della fiducia di Tsipras, fiducioso in un compromesso, l'Eurogruppo si è concluso senza un accordo. Ne parleremo dopo le informazioni sul traffico con la direttrice della rivista Aspenia, che è la rivista dell'Aspen Institute, nonché ex sottosegretario agli esteri, Marta Dassù. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora sì, resta la giungla, la confusione nella nostra testa, però vorrei, se riusciamo, volare leggermente più alto senza diventare Pindaro. Perché? Perché ringrazio appunto per averci raggiunto in collegamento la direttrice di Aspenia, Marta Dassù, ex sottosegretario agli esteri. Tra l'altro ricordo io che il prossimo numero di Aspenia, che è la rivista di economia e relazioni internazionali dell'Aspen Institute, uscirà in allegato col Sole 24 Ore lunedì prossimo. Tra l'altro è dedicata, il titolo è Fame Zero, il rinascimento agricolo, OGM sì, OGM no, chi vi parla ha una posizione molto laica sugli OGM. Abbiamo sempre detto che senso ha fare battaglie ideologiche quando poi il 70-80% dei nostri mangimi con cui si nutrono, le mucche per il parmigiano reggiano, il grana padano, i maiali per il prosciutto crudo e quant'altro, mangiano mangimi, per il 70-80% mangimi OGM, e in questo modo abbiamo bloccato completamente la ricerca sugli OGM in Italia, lasciandola alle multinazionali americane, mentre sarebbe utile sapere se in maniera laica gli OGM possono essere utili per esempio per ridurre la valanga di pesticidi che utilizziamo per le nostre produzioni dell'ortofrutta. Comunque, con Marta Dassù, che ringrazio, vorrei capire questo. Con una frase, con una battuta, dottoressa Dassù, potremmo dire che qui o si fa l'Europa o si muore. Io non ricordo un periodo, da quando è nato l'euro, così delicato per l'esistenza stessa dell'Europa, in cui si intrecciano la variabile greca, variabile pesantissima, la Grecia, quindi la permanenza o meno di un paese nella moneta unica, e le politiche di austerità, la variabile migranti, e quindi esiste o no un'Europa solidale, oppure ogni paese pensa ai casi suoi quando lo ritiene necessario, e l'approccio verso la Russia, perché anche qui l'Italia paga conseguenze più alte dal punto di vista economico di altri paesi. È d'accordo che qui o si fa l'Europa o si muore, cioè che siamo di fronte a un bivio? Sì, sono abbastanza d'accordo, anche se uno potrebbe dire, per fare l'avvocato del diavolo rispetto a quello che lei ha detto, che forse la crisi finanziaria del 2008-2009 poteva essere una crisi più sistemica, diciamo così, per l'economia europea nel suo complesso. Oggi la crisi greca è una crisi grave anche per ragioni simboliche, per certo, così dire, ma di fatto riguarda, come ci ripetiamo in continuazione, una parte piccola del PIL europeo. L'1,8%. Sì, quindi tutto sommato, se non ci fossero, diciamo così, queste dosi da cavallo di sfiducia fra i paesi europei, in questo caso fra i grandi creditori e i grandi debitori, tutto sommato sarebbe una crisi gestibilissima. Ma è vero, come lei ricordava, che è un po' l'ordine europeo uscito dalla fine della guerra fredda a essere entrato in una crisi profonda. L'Europa si è allargata, diciamo così, a dismisura dalla fine della guerra fredda in poi, in particolare col famoso allargamento così di gruppo del 2004, e adesso queste crisi sono un po' sui confini sensibili in qualche modo. L'Ucraina è una specie di stato cuscinetto fra l'Europa e la Russia, e avere toccato e sfrugugliato quel fronte ha messo in discussione appunto i rapporti fra una Russia che vuole ritrovare una specie di piccolo impero ai suoi confini, un Putin seccatissimo, diciamo così, del modo in cui è stato trattato negli ultimi anni. Quindi l'Ucraina sfrugugliata ha messo in grossa discussione tutto il fronte est, a sud, lei ricordava giustamente tutto il problema migratorio, quindi è un'Europa che nel suo centro, nelle economie del centro, è forse più solida di quanto non fosse nel 2008, tutto sommato, La Germania non è stata quasi toccata dalla crisi, però anche paesi come la Spagna o l'Irlanda o anche l'Italia al limite vanno un pochino meglio, ma ai confini ci sono grossi problemi che sono anzitutto geopolitici. Allora, vorrei restare su questo aspetto perché a me è molto impressionato quanto lei ha scritto pochi giorni fa, citando un suo vecchio amico americano. Aspenia chiaramente nasce con una forte componente atlantica, dicendo: se l'Europa avesse una visione geopolitica, la crisi greca sarebbe stata risolta da un pezzo. Aggiungendo, insomma, attenzione, se l'Europa avesse una visione geopolitica, mai penserebbe di poter spingere la Grecia nelle mani, nelle braccia di Vladimir Putin. Allora, qui c'è un tema che non è economico, l'abbiamo detto tutti, l'1.8% del PIL, manca una visione strategica, cioè ogni paese pensa, la Merkel pensa al Bundestag e a non perdere la faccia con gli elettori conservatori tedeschi, ognuno pensa per sé, ma una visione geopolitica, con buona pace di Lady Pesce, che mai ha contato nulla né la Ashton né la Mogherini, questo lo dico io, non lo dice lei, lo dico io, ci mancherebbe, però dico, se avessimo una visione non saremmo neanche arrivati a questo punto, forse. Ma insomma, io credo che la Grecia è un problema che ci conviene trattare in modo positivo, appunto. Io credo che abbia interesse a tenere ancorata la Grecia, perché al di là di tutto è su un versante, un quadrante geopolitico molto delicato. Adesso io non credo, il titolo della stampa era anche un po' forzato per i miei gusti, ma insomma, tutto sommato, gli americani in questo momento vedono solo il fronte est, vedono solo l'Ucraina, vedono solo la Russia. Io tutto sommato, e io appunto riferivo di questo riflesso americano, per gli americani è incredibile che noi ci gingigliamo appunto con una crisi economica di queste piccole dimensioni e loro vedono solo il problema Russia, perché la Grecia naturalmente fa un po' di gioco verso la Russia. Non dimentichiamo poi che dalla Grecia passano importanti gasdotti, per esempio il TAP, quello della Transadriatic Pipeline all'Azerbaigian, passa dalla Grecia. Quindi se la Russia decidesse appunto insieme alla Grecia di cambiare queste rotte dell'energia, in qualche modo avrebbe un'influenza la Grecia. Ecco, quindi la Grecia non va, insomma, esagerato questo punto, anche perché la Russia non ha i soldi per potere, diciamo così, ricostruire l'economia greca, non lo farebbe mai, perché adesso stiamo parlando di questa tranche, di questo secondo pacchetto, ma in realtà quello che ci aspetta è un terzo pacchetto di aiuti alla Grecia, che sarà molto più pesante di questo, si parla di 40-50 miliardi di euro. Quindi insomma, io non credo fino in fondo nell'ipotesi di una Grecia che si butti fra le braccia della Russia, però questo gioco c'è. E tutto sommato all'Europa non conviene affatto andare in quella terra incognita della perdita della Grecia. Abbiamo già perso la Turchia fondamentalmente, abbiamo dei problemi enormi nel Mediterraneo, abbiamo un bel pasticcio anche nei Balcani, quindi fondamentalmente io tenterei di risolvere la crisi greca in un modo costruttivo. Certo, c'è sempre il problema di non premiare l'azzardo morale dei debitori, questa è anche la logica su cui si fonda l'Unione Europea. Però lei fa un ragionamento molto alto anche ogni tanto di geopolitica, perché l'azzardo morale dei debitori, ricordiamo che però sto debito non l'hanno fatto né Tsipras né Varoufakis, hanno fatto i precedenti governi con un'Europa che sonnecchiava mentre prestava soldi le banche francesi e tedesche e vendeva missili, vendeva sottomarini e però pagava tangenti come la Siemens. No, vabbè, io ho capito il suo ragionamento. Attenzione, insomma, non gingilliamoci troppo, perché la situazione è più seria del semplice caso greco. Senta, dottoressa Dassù, mi dà anche un commento nel finale sulla vicenda migranti, che ha un minor carattere economico, ci mancherebbe, anche se non è irrilevante, ma è secondario. Però molti osservatori sembra mostrare un altro fiato corto dell'Europa. Ma non c'è dubbio, perché su tutta questa vicenda l'Europa fa dei passi microscopici. Se si riconoscesse il dato per quello che è, cioè un dato strutturale che dipende dall'invecchiamento della nostra popolazione e dal gap sia demografico che di sviluppo fra Europa e Africa, il problema è molto serio e dovrebbe essere affrontato molto seriamente, cosa che non è. Adesso si fanno delle misure di emergenza abbastanza ridicole quanto a numeri. Posso dire solo una cosa su quello che lei diceva prima? Cioè l'Europa non reggerebbe 5 minuti se il nuovo governo dicesse quello che ha fatto il precedente, io non lo riconosco. Insomma, qua è chiaro che qua è un grosso tema, cosa rispetta un governo degli accordi presi da quello precedente, però certo. Insomma non reggerebbe proprio il sistema internazionale se il cambiamento politico equivalesse a un cambiamento dei trattati già sottoscritti. Ecco, questo qui, mi sembra. Questa è la sua frecciata, Varoufakis Tsipras. Mi dia un ultimo commento invece sulla vicenda ucraina, perché un po' di mal di pancia inizia a esserci. L'Italia sente che è lasciata completamente sola quando decine di migliaia di migranti sbarcano sulle coste, e però deve mettersi in coda con delle sanzioni che pesano tantissimo sul nostro export. Noi eravamo un partner privilegiato, il primo partner della Russia. Sì, noi la Germania. Noi la Germania, certo, la Germania però sui mezzi, noi anche sul Made in Italy, su tutto un insieme di cose abbiamo raccontato come ormai stiano sostituendo prodotti, non c'era Italian Sounding in Russia, erano tutti prodotti originali che adesso vengono sostituiti da prodotti turchi o cinesi, perché i ristoranti italiani in tutta la Russia devono poter continuare a lavorare, certo, con un rischio di un danno permanente. Ecco, lei non lo sente un po' questo doppio trattamento? Cioè sui migranti ti lascio solo, però sulla Russia ti devi accollare più carico finanziario ed economico, più danno economico di altri paesi? No, cioè c'è chiaramente una questione, diciamo così, una questione di divisione degli oneri in Europa. Noi purtroppo abbiamo una posizione geopolitica molto esposta, sia verso il Mediterraneo che verso l'est, e quella è la geografia. Poi secondo me, noi, questa è una mia opinione da così spassionata, ma insomma secondo me noi non è che giochiamo benissimo le nostre carte. Ad esempio noi ci divertiamo a dire che sulla Russia abbiamo una posizione eterodossa, cioè diciamo le sanzioni ci costano troppo, in fondo Putin la Crimea se la può pure tenere, cioè non, diciamo, parliamo in modo che è un po' irrituale per essere un paese della NATO, e invece poi applichiamo le sanzioni al di là di ogni ragionevolezza. Le sanzioni non riguardano i prodotti della moda e del lusso, quindi voglio dire, converrebbe molto di più secondo me avere una posizione normale, per cui un paese che cambia con la forza l'ordine europeo, che invade con soldati senza mostrine pezzi di un altro, è un paese che è difficile considerare un interlocutore normale, e questa è la Russia di Putin. E le sanzioni le applichiamo, quelle vere, quelle che possono rilevare in un caso del genere, che guardano le questioni militari e così via, sanzioni inutili come quelle che lei della citava. Moda dell'alimentare. Sì, ma nessuno direbbe nulla, se non fosse che noi ci mettiamo da soli sotto una lente di ingrandimento a furia di dire che le sanzioni perché siamo, ci costano siamo troppo. Più realisti del re. Sentami, in una battuta, perché devo veramente chiudere, ma insomma l'Italia, il governo ha un problema di politica estera? Ma io credo che tutti i paesi europei in questo momento abbiano un problema di politica estera, nel senso che come paesi europei, medi come il nostro, non facciamo parte del Consiglio di Sicurezza, non abbiamo un grandioso esercito, non abbiamo le armi nucleari, contano relativamente poco. Quindi è chiaro che noi siamo un paese a cui l'Europa servirebbe, però questo tipo di Europa in questo momento non serve. Grazie, grazie alla direttrice ed ex sottosegretario agli esteri Marta Dassù, direttrice di Aspenia. Dimenticavo di dire che nel numero che sarà in allegato con Sole 24 Ore di lunedì c'è anche una bellissima parte dedicata alle donne, l'altra metà della terra. Una volta si diceva l'altra metà del cielo, ma stiamo ancora più concreti. L'altra metà della terra, grazie alla direttrice Marta Dassù. E da Sebastiano Berisoni è veramente tutto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Domani è venerdì, c'è anche la poco invidiabile classifica degli sprechi della settimana. Intanto, buona serata. Radio 24. La passione si sente.